diserzione, che un gesto disperato, chi per noi prova compassione, chi lo considera un reato, chi ci imputa il coraggio, chi cieca e stupida viltà, a noi morti per oltraggio, schiavi della libertà. Per noi non una lapide, niente marmi né ori, e poi col sale delle lacrime la rabbia asciugherà il dolore. Restare un gesto senza senso, se non il senso di vuoto che il nostro infinito silenzio getta in bocca a tutti i vostri, perché... Ci sarà tempo di maledire e piangere e ringraziare chi ha saputo stupire con la forza di un immortale. Desiderio vive in quanto s'assimila all'eterno, e voi dal vostro canto ci preferite all'inferno. L'inferno del buon costume a cui noi ci ribelliamo, perché ha torto ragione, siamo quelli che siamo. Siamo cattivi esempi, sobillatori della gioventù, gli artisti Werther di altri tempi, i Sisifi di Camus. Noi che di bellezza amore abbiamo piene le vene, convinti che la vita sia ben più che tenere poche celle. Siamo uniti nel silenzio, vi osserviamo dalle barricate del nostro fiero sdegno, come sentinelle dimenticate dalla guerra in un remoto avamposto di frontiera, immuni alla pace, alla sconfitta, alla paura. La paura che ci tiene tutti in bilico sull'abisso, la differenza tra noi e voi, allora forse solo un passo dopo passo, attraverso i secoli inutili, fragili, stupidi, ridicoli, burattini in un teatro avvolto dalle fiamme, con occhi di cera e volti di catrame. A me del vostro applauso non me ne frega, è già il suo scroscio nel rombo del mio sangue annega. Negatemi una tomba, negatemi il ricordo, ma non negatemi un istante per prestare ascolto a chi poteva vivere nel nome d'un'unica carezza, malato di disperazione, o forse di troppa tenerezza. Andrete al vostro cielo con le schiere dei giusti, come è scritto nel Vangelo. Guardate giù un istante dalle porte dell'Elisio e vedrete le nostre ombre torreggiare nella luce accecante del suicidio.